stolto e non ti intendo. Sei stolto, sei stolto e non ti intendo. Stringi le mie catene e mi rinfacci. Fabbrica le mie pene e poi mi tacci. Credimi tu, sei stolto e non ti intendo. Fabbrica le mie pene, stringi le mie catene e poi mi tacci, mi tacci. Credimi tu sei stolto e non ti intendo. Sei stolto e non ti intendo. Mi tacci, credimi tu sei stolto.